R, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A gennaio un vertice sui Balcani a Trieste, ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo: preparare una serie di iniziative politiche per fare dell'Italia un paese protagonista nell'area. Al centro Balducci di Zugliano la rete DASI denuncia centinaia di migranti esclusi dall'accoglienza, una situazione drammatica. Comunali a Udine, accordo raggiunto nel centro-sinistra. L'ex rettore De Toni sarà il candidato sindaco che sfiderà Fontanini. Indagini anche con il georadar a Staranzano per studiare i resti di una villa romana caratterizzata da spazi di culto dedicati alle donne. Calcio Serie C, ancora un pareggio per il Pordenone, costretto all'1-1 dall'Albino Leffe. La Triestina batte per 1-0 la Pergolettese. Giovedì il derby a Lignano. Basket, pallacanestro Trieste in campo a Varese. Udine e Cividale si giocano il tutto per tutto per un posto in Coppa Italia. Verso Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Oggi l'accensione dell'albero nella piazza della Transalpina. Solidarietà di Natale. A Trieste ritorna la Christmas Run, la tradizionale gara di corsa non competitiva in beneficenza il ricavato. Buona domenica da Elisabetta Zaccolo e da Daniele Lettigi in studio per questa nostra prima edizione del giornale radio. Subito però uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno e poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 7, a Trieste 5 gradi, vento a 35 km orari da est-nord-est, bora, ma le raffiche stanno raggiungendo i 60 km all'ora, a Udine 4 gradi, a Gorizia 3 gradi e mezzo, a Pordenone 5 decimi di grado, a Tolmezzo 0 gradi, a Tarvisio meno 2 gradi e mezzo, a Forni di Sopra meno 3, Piancavallo meno 6, Sappada meno 9, sul Monte Zoncolan meno 6 gradi, sul Monte Lussari meno 9 gradi e mezzo, a Lignano e Grado 5 gradi e mezzo. Ed ecco le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali nebbie e nubi basse sul Tarvisiano in Valcellina. Gelate notturne a tutte le quote sulla zona montana, locali anche sulla pianura. Soffierà bora moderata su costa e zone orientali. L'impegno per l'integrazione europea dei Balcani occidentali è una costante della politica estera italiana e si conferma come una priorità anche per il nuovo governo. Saranno tante le iniziative concrete in questa direzione, a partire dalla convocazione di una conferenza ad hoc a Trieste il mese prossimo. A darne l'annuncio il ministro degli esteri Antonio Tajani, che considera la stabilità della regione in funzione di contenere i flussi migratori. L'impegno in Serbia e Kosovo è in linea con il ruolo da protagonista che l'Italia gioca e vuole continuare a giocare. Nei Balcani, ha spiegato Tajani. Il governo nei prossimi mesi è in cantiere diversi progetti per dare slancio a questa progressiva connessione tra i Balcani, l'Italia e l'Europa, a partire appunto dall'organizzazione di una conferenza italiana a Trieste per preparare una serie di iniziative politiche, ha annunciato Tajani. Il senso di tutto questo è guardare ad un orizzonte politico che porti a una stabilità della regione, anche per contribuire a risolvere una delle principali sfide dell'Europa, quella migratoria. Su questo fronte l'Italia, per ridurre i flussi, ritiene importante mettere in sicurezza la rotta balcanica, tanto quanto quella mediterranea. E proprio di migranti, con gli arrivi in aumento dalla rotta balcanica, si è parlato in un convegno al centro Balducci di Zugliano. Le organizzazioni, parte della rete DASI del Friuli Venezia Giulia, hanno ribadito l'illegittimità delle riammissioni informali alla frontiera tra Italia e Slovenia. Sono centinaia i migranti giunti in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica, lasciati all'addiaccio nel freddo dell'inverno, esclusi da ogni tipo di accoglienza pubblica, affidata esclusivamente agli interventi di enti caritativi, associazione della società civile e del volontariato di strada. E questa la denuncia lanciata dalla rete dei diritti di accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia nel corso di un incontro al centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano. La situazione peggiore, ricordano le associazioni, si registra soprattutto a Trieste, Gorizia e Gradisca di Sonzo. Famiglie con bambini anche di pochi mesi costrette a dormire al freddo a causa delle istituzioni locali che, nonostante l'intensificarsi degli arrivi e l'assenza di significativi ricollocamenti delle persone migranti in altre regioni, non predispongono misure di prima accoglienza. Nel corso dell'incontro è stato ribadito l'illegittimità delle riammissioni informali alla frontiera tra Italia e Slovenia, anche in forza della sentenza del Tribunale di Roma del gennaio 2021. Zugliano, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Notte di incidenti in regione, fortunatamente con esiti non gravi. Alle 2 un uomo è stato soccorso a Moimacco per cause ancora in via d'accertamento, uscito dall'auto e decaduto all'interno di una cavità vicina ad un cantiere. A Reana del Royale il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo dopo aver impattato contro un animale selvatico sbucato improvvisamente sulla carreggiata. A Udine una macchina si è ribaltata e Opicina il conducente di una vettura, un quarantenne, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un albero. Feriti in maniera non grave il conducente e il passeggero. E ancora a Trieste, in Viale d'Annunzio, scontro tra un'auto e uno scooter. Una persona è rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Cattinara. Anche in questo caso ferite non gravi. Passo avanti verso l'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Udine dell'ex rettore dell'Università del Friuli, Alberto De Toni. Nella sfida delle comunali del 2023 contro il centrodestra, che ricandiderà il primo cittadino uscente Pietro Fontanini della Lega. Ieri si è svolto un incontro tra De Toni, candidato in pectore del centrosinistra, ma sostenuto anche dai riformisti del Terzo Polo e dagli autonomisti, e il capogruppo del PD in consiglio regionale, Alessandro Venanzi. Il risultato dell'intesa raggiunta tra i due è un ticket che potrà vedere De Toni candidato sindaco e Venanzi candidato vice sindaco sfidare insieme Fontanini. Il comune di Staranzano ha presentato i risultati della prima fase progettuale per la valorizzazione della villa romana caratterizzata da spazi di culto esclusivamente femminili. Il complesso residenziale è molto più esteso della porzione oggi visibile e necessita di ulteriori scavi. La villa romana di Staranzano risale alla seconda metà del primo secolo avanti Cristo, con rifacimenti successivi fino al secondo secolo dopo Cristo. Quest'anno, su impulso del comune, l'Università di Trieste con la startup Esplora ha realizzato un'ampia indagine con il georadar che ha permesso significativi approfondimenti storico-scientifici. L'archeologa Gabriella Petrucci. È un po' un unicum, nel senso che all'interno di questa abitazione, di questa villa, ci sono i resti di quella che potrebbe essere un'area, una stanza, una sala dedicata ad un culto particolare, il culto della Bona Dea. Culto è prettamente femminile, a questi riti potevano partecipare soltanto le donne e specialmente si rivolgevano alla Dea giovani donne in procinto di sposarsi. L'assessore alla cultura del comune di Staranzano, Roberta Russi. La zona archeologica emersa è solo una piccola parte dell'estensione completa della villa e sappiamo che aveva almeno 2500 metri quadri in direzione nord-ovest, quindi è interessante approfondire le indagini in modo da poter ricostruire completamente la villa in tre dimensioni e dare la sensazione anche ai visitatori di come si vivesse all'interno di una mansio romana. Staranzano, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo ora allo sport con il calcio. In Serie C ancora un pareggio per il Pordenone raggiunto nel recupero dall'Albino Leffe. La Triestina invece vince contro la Pergolettese per 1-0. Giovedì a Lignano alle 14.30 il derby regionale tra le due squadre. Ancora una volta in rimonta, ancora una volta all'ultimo respiro con un giro di boa amaro. Il Pordenone continua la striscia senza successi buttando letteralmente via la vittoria zanica sul campo dell'Albino Leffe nell'ultima giornata dell'andata. L'esordio dal primo minuto di Palombi è positivo, l'attaccante Scuola Lazio va subito al tiro, deviato in corner. Il primo tempo è abbastanza avaro di occasione, al 36esimo Candellone va vicino alla rete su cross del solito Bruscagin, forse il migliore dei neroverdi. Nella ripresa cala ulteriormente la visibilità e anche la qualità di gioco, dopo un gol annullato per fuori gioco, il Pordenone rischia sul colpo di testa di Borghini ma poi passa in vantaggio al 30esimo. Palombi tira, sulla respinta c'è la deviazione di Milesi che insacca l'1-0 per i Ramarri, che sembrano controllare ma cedono nel recupero per siglare l'1-1 e Borghini da due passi. La squadra di Di Carlo non approfitta così dello stop del Vicenza per riprendersi la testa della classifica, scivolando anzi al quinto posto a meno 2 dalla vetta ora occupata dalla Feralpi Salò. Torna invece la vittoria una Triestina che bada al sodo con diverse assenze, una posizione di classifica drammatica, vince 1-0 contro la Pergolettese, partita spigolosa, pochi tiri in porta e tanto nervosismo. Ospiti vicino al bersaglio con Villa al nono. Per la squadra di Pavanello Rocchetti calcia le stelle vanificando un contropiede 5 minuti più tardi. Al 33esimo alla Bardata in vantaggio, strappo di Gori che porta palla e Minessa, autore finora di un campionato deludente, da fuori area di sinistro trova la deviazione che spiazza Soncin. Dopo il riposo accade poco, Ganz da lontano va vicino al bis, poi la Triestina si chiude per proteggere l'1-0 e tre punti che in classifica valgono oro, terz'ultimo posto e un girone intero per provare a far svoltare la stagione. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo essere uscita sconfitta dall'amichevole con il West Ham, ieri sera il Friuli l'Udinese ha perso anche quella con i baschi dell'Athletic Bilbao, quarti in classifica nel campionato spagnolo. Il prossimo impegno dei friulani sarà ancora un amichevole, venerdì 23 con il Lecce, prima della ripresa del campionato con la trasferta sul campo della Cremonese di sabato 29. Basket, impegno in trasferta oggi per Trieste nella 13ª giornata del campionato di Serie A1. Alle 18 la squadra di Legovic giocherà a Varese, sesta in classifica con 12 punti contro i 6 degli Alabardati. In casa triestina c'è voglia di riscatto dopo la sconfitta con Brindisi. Per la Serie A2, sempre alle 18, l'APU Old Wild West Udine, reduce da due sconfitte consecutive e fresca dell'ingaggio di Alessandro Gentile, gioca in Puglia contro la Next Nardò. Impegno in casa invece per Cividale, che al Pala Steco affronterà la Umana Chiusi. Pallanuoto, sesta vittoria di fila per Trieste nel campionato di Serie A1, ottava se si considera anche l'Eurocup. Ieri sera alla Bianchi gli Alabardati hanno vinto per 20-11 contro la De Acker Bologna in un match a senso unico. Con questa vittoria Trieste mantiene il secondo posto dietro la Pro Recco e la N Brescia con 24 punti. E pallamano, vittoria convincente per Trieste che al Palachiarbo l'ha battuto per 26-20 l'Arcom Mestrino, consolidando così il secondo posto in classifica nel campionato di Serie A2 alle spalle della capolista Appiano. Lisa Vittozzi ha conquistato il suo terzo podio stagionale di Coppa del Mondo di biathlon. Alle Grand Bornand in Francia, nella gara di inseguimento femminile, è arrivata seconda dietro solo alla svedese Elvira Öberg. Vittozzi conferma così il super avvio stagionale e rimane in corsa per la sfera di cristallo. Iniziamo la nostra rassegna stampa dal Piccolo di Trieste, che in prima pagina, oltre alla fotonotizia di luci e alberi di Natale, ha l'annuncio del vertice sui Balcani che si terrà nel capoluogo regionale a gennaio. Raccolta differenziata a rilento, la città si conferma in fondo alla classifica. La sua media è del 45%, quella regionale del 69%, la nazionale del 63%. E poi un anniversario letterario importante. A maggio del 2023 ricorre un secolo dalla pubblicazione della coscienza di Zeno, il romanzo che ha cambiato la letteratura italiana. Fioccano le iniziative per le celebrazioni e pensare che quando uscì la reazione del pubblico e degli addetti ai lavori fu a dir poco tiepida. Apre con la politica l'edizione di Udine del Messaggero Veneto. Accordo nel centro-sinistra, De Toni candidato sindaco. Notizia questa che apre anche le pagine della cronaca cittadina. Una fotonotizia centropagina racconta la storia di Alice, Enrico e Gaia, tre gemelli di Rivignano, alla prima donazione di sangue. In prima, spazio poi alla Danieli che premia 250 dipendenti e alle notizie di sport, con l'Udinese che sbaglia troppo contro l'Atletico Bilbao e le sfide del basket di Udine Cividale. Il dorso udinese del Gazzettino titola invece con le parole del presidente regionale Fedriga: il punto nascita di San Vito al Tagliamento non si tocca. In alto una notizia economica: investimenti a rischio nel 2023, crescita a rischio con il Friuli Venezia Giulia, che è l'unica regione del nord in cui rallenta l'intervento pubblico. Un richiamo, infine, anche alla produzione di panettoni, costretta a rallentare. A lievitare sono solo i costi. Il Piccolo di Gorizia è in prima pagina l'approfondimento sull'ultima riunione del GECT, il gruppo europeo di cooperazione territoriale in vista di Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025. GECT che investe su sanità e turismo senza confini con 10 milioni. Al via anche Go Explore Bus, il primo collegamento transfrontaliero tra Gorizia e Nova Gorizia, partito da Piazza Transalpina. Cresce l'allarme povertà a Monfalcone, assistite 300 famiglie all'emporio della Caritas. L'appello del comune: servono olio e latte. L'assessora Garimberti chiede ai supermercati aiuti per la colletta alimentare e l'organizzazione del pranzo di Natale. Anche il Messaggero Veneto di Pordenone titola sulla politica: redditi dei consiglieri comunali, c'è chi non li presenta. Il più ricco è Giannelli, ma di qualcuno mancano i dati e per altri le cifre risalgono al 2019. Anche questa notizia apre le pagine locali della cronaca. A centropagina una fotonotizia illustra il primato regionale di Pordenone per il numero di abeti natalizi in città, ben 90. C'è spazio poi per un richiamo alla notizia della scossa di terremoto in Valcellina e per lo sport al pareggio del Pordenone. Neroverdi beffati al 92esimo, a Bergamo è solo pari. Il Gazzettino di Pordenone apre le pagine locali sempre sulle parole di Fedriga, che blinda il punto nascita dell'ospedale di San Vito. C'è poi spazio per un richiamo all'influenza: mezzi pubblici dell'ATAP senza autisti che sono ammalati, a guidare sono i dirigenti. Entra nel vivo il dicembre goriziano, oggi uno dei momenti più importanti con Go 2025 sempre più vicina, la festa in piazza Transalpina che sarà l'occasione per celebrare l'anniversario dell'assegnazione del titolo. Si comincerà alle 17 con Luci e Lumi, iniziativa a cui parteciperanno le scuole del territorio italiano e sloveno, mentre alle 18 sarà acceso l'albero di Natale, si procederà allo scambio di auguri tra le due città. Infine alle 19 ci sarà il concerto della cantante Tish. Prosegue il ciclo delle lezioni di storia dedicate ai ribelli, promosso dal Comune di Trieste. Appuntamento di oggi è a cura del professor Giusto Traina ed è dedicato a Spartaco, la rivolta per la libertà, al Teatro Verdi alle ore 11. A Tramonti di Sotto si rinnova come ogni dicembre la commemorazione dei partigiani Paola Battisti, Sergio e dei 10 fucilati, quella meglio gioventù che non esitò a lottare contro il nazifascismo fino a dare la propria vita. Il ritrovo alle 10 in piazza Santa Croce, da dove partirà il corteo verso il cimitero. Una notizia di servizio. Per consentire lo svolgimento della sfilata della fanfara dei bersaglieri in congedo all'interno delle manifestazioni del Natale a Pordenone, dalle ore 10.30 fino al termine della manifestazione verrà sospesa la circolazione stradale nell'itinerario da Corso Vittorio Emanuele II nella loggia del municipio verso Piazza Cavour con arrivo in piazza 20 settembre. Ritorna oggi, dopo qualche anno di stop, la Christmas Run, la tradizionale gara natalizia di corsa non competitiva curata dall'APD Miramar in collaborazione con il Comune di Trieste. Partenza fissata alle 10 da Piazza Unità, ma sentiamo il presidente dell'APD Miramar, Giampaolo Petrini. Dopo un paio d'anni che non si svolgeva più questo tipo di manifestazione, ritorna stamattina la Trieste Christmas Run, una gara non competitiva di 5 chilometri che si snoda per le vie cittadine partendo dalla Piazza Unità e arrivando in Piazza Unità. Il percorso è verso via Romolo Gessi per poi fare salita promontorio e ritornare in Piazza Unità. E ha avuto un successo incredibile perché a ieri sera, sabato, siamo a 385 iscritti. E perciò un grande successo di questo tipo di manifestazione. Ricordo che l'iscrizione è gratuita e che se uno vuole può donare qualcosa per l'associazione I Bambini del Danubio. In Piazza Grande a Palmanova ritorna oggi la manifestazione Magia delle Mani in una speciale veste natalizia. Dalle 9 alle 19 saranno oltre 120 gli stand con arti manuali, prodotti, tradizioni e antichi mestieri che si vanno ormai perdendo nel tempo, con svariate dimostrazioni sul posto da parte degli espositori. Alle 16, con partenza dalla loggia di Piazza Grande, si terrà la Corsa dei Babbi Natale su un percorso totale di 4 km attorno ai bastioni, accompagnata da una raccolta di scarpe da corsa in disuso per i ragazzi dell'Africa. Alcune tra le più belle e famose pagine di Haydn e Vivaldi saranno protagoniste del sesto appuntamento con le mattinate musicali internazionali della nuova orchestra Ferruccio Busoni di Trieste alle 11 all'auditorium del Museo Revoltella. E tornerà a suonare nella chiesa dell'antica pieve di Sant'Ulderico a Dolina, alle porte di Trieste, l'organo monumentale oggetto di un importante restauro filologico. Alle 19.30, inaugurazione e benedizione impartita dall'arcivescovo di Trieste Crepaldi, che sarà accompagnata dai canti del gruppo vocale cantante Domino. Torna oggi a Trieste il Pupkin Cabaret con grandi novità. Le porte si apriranno alle 16 con un pre-Pupkin dal Qatar. Si potrà così fare doppietta seguendo la finale mondiale sul grande schermo e seguire allo stesso tempo lo show. Un concerto dedicato alla questione dei cambiamenti climatici e alla promozione dello sviluppo sostenibile è quello organizzato dall'ACRI di Trieste che vedrà protagonista il gruppo dei Sardoni Barcolani Vivi alle 18 al Teatro Silvio Pellico di Trieste. Oggi alle 9.15 trasmetteremo l'originale radiofonico Ricette e Storie di Natale di Liviana Poropat per la regia di Stefania De Maria. Ritornano gli amici della cucina di casa nostra. Siamo sotto le feste, Giacomo e Alma assieme a due nuovi amici, Bruna ed Arietto, e l'ineffabile Conte Costantin saranno impegnati a preparare il menù della gran cena della vigilia di Natale. Ci riusciranno anche grazie ai suggerimenti della chef d'eccellenza Antonia Klugman. Ed è tutto per questa edizione. Per la parte tecnica in regia Carlo Morello, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Daniele Lettige e da Elisabetta Zaccolo che vi parla. Ancora l'augurio di una buona domenica, ci risentiamo alle 12.15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.